in generale un museo diffuso o ecomuseo, che è una cosa che nasce circa negli anni 70, con l'intento di patrimonializzare dei beni, dei materiali, cioè dei beni sia materiali che immateriali, dei territori considerati tradizionali o comunque da tutelare, no? Come le piccole comunità montane o quelle rurali, insomma, territori di solito con un interesse antropologico particolare o che avevano bisogno di essere tutelati in una modalità diversa da quella classica museale, per cui magari si costruisce proprio un luogo fisico adatto per conservare reperti. Invece un museo diffuso nasce proprio con l'idea di raccogliere e classificare questi beni in modo vivo, però, cioè coinvolgendo direttamente il territorio e chi abita questo territorio nell'azione di patrimonializzazione e di musealizzazione. Quindi appunto è un museo tendenzialmente aperto e comunitario, proprio anche partecipato proprio nella sua stessa, di solito nella sua stessa modalità di funzionamento. E infatti Musei Urbani, che nasce appunto come museo diffuso, che è il nostro progetto, ha proprio quest'idea, no? Di essere comunque un museo partecipato e collettivo. In più, diciamo così, per sempre sulla scorta dell'idea di museo diffuso, noi abbiamo cercato di fare magari un passo un po' diverso, nel senso che di solito appunto i musei diffusi si rivolgono, sono dedicati a territori appunto come dicevo prima, come le piccole comunità o appunto territori, diciamo così, a volte non proprio centrali. Invece noi abbiamo deciso di dedicare un museo diffuso ai quartieri urbani della nostra città. Per questo musei urbani, perché in realtà noi ci concentriamo in qualche modo comunque sulla nostra città, sul territorio urbano, però con uno sguardo appunto diverso da quello della storia tradizionale o della cultura tradizionale, quindi cerchiamo di valorizzare dei luoghi appunto anche nei quartieri e appunto delle dinamiche sociali e culturali di quartiere che di solito l'attività culturale cittadina in realtà non valorizza, ecco. E tutto questo attraverso poi operazioni appunto anche di tipo laboratoriale, di ricerca etnografica partecipata insieme ai cittadini. In più, la nostra un'altra piccola innovazione che noi crediamo di introdurre nell'idea di museo diffuso è anche che siamo un gruppo sia di storici che di artisti. Quindi la nostra operazione, oltre a essere a cavallo, diciamo così, tra la ricerca storica e quella etnografica barra antropologica, utilizza anche gli strumenti dell'arte, della ricerca artistica teatrale. Conduciamo laboratori che sono sia di ricerca storica antropologica, ma attraverso gli strumenti, per esempio, del teatro, in ogni caso della ricerca artistica. E la stessa cosa la facciamo nell'esporre, no? Nella fruizione poi di quello che è il nostro museo, perché abbiamo pensato tante modalità per fruire i nostri percorsi e appunto abbiamo visite guidate performative, visite guidate appunto itineranti attraverso i quartieri, ma anche visite guidate più particolari che offrono anche la possibilità di un'interazione diversa rispetto a quella di un museo E tradizionale. una di queste visite possiamo farle il 25 e il 26? Esattamente, proprio il 25 e il 26 in cui facciamo questo weekend di inaugurazione del nostro progetto, avremo varie iniziative, sicuramente quelle portanti sono le nostre visite guidate che permetteranno appunto di fare due percorsi che per ora abbiamo inaugurato, poi ce ne saranno altri che arricchiranno l'offerta del museo, ma sicuramente il 25 in particolare alla mattina sarà possibile fare il percorso La città in colonia, che partirà dalla nostra sede, appunto avrà la nostra guida e condurrà un gruppo di visitatori per diversi quartieri della città in realtà, e un'altra visita guidata sarà possibile al pomeriggio, e questa tra l'altro ancora più particolare perché sarà fatta in bicicletta, perché appunto si chiama La città industriale, è un percorso molto interessante che attraversa proprio la storia dell'evoluzione industriale della nostra città, prendendo in esame un quartiere specifico che è il quartiere San Leonardo, dove appunto l'industria cittadina si è sviluppata dall'inizio del Novecento, analizzandone tutte le dinamiche, però questo percorso appunto è fatto in bicicletta e si attraversano appunto tutte le zone interessate da questa dinamica storica, ma con la guida, con la nostra guida che in modo anche abbastanza appunto avventuroso e divertente riesce a raccontarti e a coinvolgerti rispetto a temi che di solito appunto magari sono anche sottovalutati o proprio ignorati dalla maggior parte delle Quindi persone. l'appuntamento è sabato 25 ottobre alle 10:30 a Parma. Esatto, nella nostra sede di Borgo Cocconi vi aspettiamo e in generale vi aspettiamo anche per tutto il weekend nel quartiere Oltretorrente, ci saranno un sacco di eventi, comunque ci trovate su Instagram, ci trovate su Facebook e lì c'è la locandina con tutte le nostre attività.